9 in punto, la versione di Oscar. Oh, buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 24 di febbraio, Sant'Etelberto addirittura, se c'è qualche Etelberto in ascolto non posso che fargli gli auguri, visto che insomma il nome è abbastanza raro. Qualche rapida osservazione sul motivo per il quale continuiamo a tenere i Doors, vediamo un pochino dal Financial Times di oggi. Il Financial Times pubblica oggi la lista delle tante condizioni contenute nei numerosi documenti sui 38 punti specifici in cui la Grecia si è impegnata a modificare il suo sistema fiscale. Sono 38 sul solo sistema fiscale, procedure giudiziarie, le assicurazioni sanitarie, il catasto, la informatizzazione del sistema fiscale. Insomma, se andate sul Financial Times vedete che gli stiamo giustamente, ma insomma, riscrivendo tutto il canone pubblico in base a cui la Grecia è uscita dal controllo della sua finanza pubblica. Paul Krugman invece rimane molto critico. Paul Krugman, sapete, scrive sul New York Times, ha un blog ed è il capofila di coloro che criticano la linea dell'austerità in nome del fatto che i deficit e i debiti pubblici devono essere per definizione sostenibili. La sua tesi, nel suo articolo che è comparso ieri tarda serata, è che abbiamo messo la politica greca in due alternative, di fronte a due alternative totalmente insostenibili, sia l'uscita sia questa permanenza nell'euro in queste condizioni sono due errori, uno più grave dell'altro. Sul Frankfurter Allgemeine Zeitung trovate un'intervista a Mario Draghi, che fa il paio con quella rilasciata al Wall Street Journal. Sono interviste rigorosamente allineate dal punto di vista della virtù, del sostegno all'intervento greco. Non si ritiene che vi siano eccessi. Il consolidamento fiscale, cioè la linea della durezza austerità, è definita senza alternativa dal governatore della BCE, che fa anche battute, ce n'è una molto divertente, perché dice a un certo punto che il modello di civiltà europeo, cioè quello fondato sul welfare, altri diritti e così via, è da considerarsi una cosa, almeno per come ha mal funzionato negli ultimi 10 anni, che appartiene al passato, perché altrimenti si finisce per dare ragione alla vecchia battuta dell'economista Ludwig Dornbusch, che diceva che gli europei sono diventati così ricchi che pagano sempre qualcuno per lavorare al posto loro. Ecco, mi fermo a questo, perché sicuramente le interviste di ieri di Draghi sono stati un'ulteriore conferma che non c'è alternativa all'attuale impostazione della BCE. Veniamo invece alle cose italiane, per così dire. La puntata di oggi è dedicata all'incrocio di quello che ci aspetta oggi per il provvedimento in Consiglio dei Ministri sulla cosiddetta semplificazione fiscale. Dico cosiddetta perché sui giornali di questi giorni a me è parso che più che semplificazione fiscale si tratti di una nuova serie di misure, un nuovo giro di vite nella lotta all'evasione, si passa di nuovo all'elenco clienti fornitori per quello che riguarda il controllo del regime IVA, mentre si era deciso di andare a uno spesometro oltre la soglia dei 3.000 euro. Sapete che è annunciato nei prossimi giorni, anzi nelle prossime settimane, il sommarsi a questo provvedimento di due altri importanti atti di governo, e cioè l'attesa della spending review da una parte, della revisione sistematica della spesa pubblica, e affidata a Vieri Ceriani, ex Banca Italia, e a Pietro Giarda, e dall'altra l'esercizio della delega fiscale che da anni i governi si trascinano dietro. Con questa delega fiscale il governo eredita dal governo precedente l'esercizio di un profondo disegno di razionalizzazione dell'intero complesso di centinaia di deduzioni e detrazioni fiscali sommatesi nel nostro ordinamento per anni. Il fine è, diciamo, molteplice. Il primo fine è quello di recuperare gettito rispetto ai 180-190 miliardi di euro di minor gettito annuo che allo Stato costa queste centinaia di deduzioni e detrazioni. Il secondo fine è quello di riordinare il welfare, per così dire. Il terzo fine è quello di unire l'esercizio della delega fiscale con le misure di semplificazione fiscale di oggi per tentare di cominciare la redistribuzione di ciò che ogni anno lo Stato porta a casa nella lotta all'evasione. L'anno scorso 11 miliardi di euro, quest'anno dovrebbero essere di più, e il governo ha fatto intendere che proprio e solo dalla lotta all'evasione si inizierà a retrocedere negli anni successivi, attraverso la costruzione di un fondo, una parte, non oltre la metà, di quanto incassato per darlo a finalità diverse. Ci sono molte promesse su questo. C'è chi ha capito, la Repubblica l'ha scritto in questi giorni incessantemente, leggendo Repubblica sembrava che la riforma fiscale fosse già arrivata con questo governo. Si è letto più volte che con metà dei proventi la lotta all'evasione lo Stato abbasserà il prelievo sul primo scaglione IRPEF dei redditi. Poi in realtà il governo precedente diceva che con l'esercizio della delega fiscale ci si concentrava a favore della famiglia e delle imprese. Tutto questo si aggiunge sul fatto che anche al tavolo aperto la riforma del mercato del lavoro, il sindacato, come leggete nei giornali, protesta perché dice: ma perché non tirate fuori risorse nuove, magari attraverso l'esercizio della delega fiscale, e li mettete invece a finanziare gli ammortizzatori sociali, perché altrimenti la riforma a costo zero non capiamo come possa andare avanti. Insomma, la confusione e la polvere intorno alla somma di tutti questi cantieri aperti, quello della semplificazione fiscale oggi, poi l'esercizio della delega fiscale, poi la promessa spending review di cui nessuno ha capito quale sarà l'ammontare e che cosa bisogna attendersi davvero di riduzione della spesa pubblica, anche quella finalizzata poi alla diminuzione delle tasse oppure no, tutto questo lavorio in realtà consente a molti di dire cose diverse. E la mia preoccupazione, fine del mio pistolotto iniziale, è che attraverso questa polvere si moltiplichino le confusioni, come quella che è chiaramente in corso per esempio al tavolo parlamentare del famoso decreto sulle liberalizzazioni, il decreto Crescitalia annunciato come una cosa da cui venivano addirittura 11 punti di PIL in 10 anni nel paese, che si è letteralmente incartato in Parlamento. Si è incartato perché il governo da una parte è sembrato respingere i miglioramenti al testo con l'idea che non si può migliorare quello che ha scritto lui, accettando quindi che la trattativa sia presa solo in quelli peggiorativi hanno iniziato a moltiplicarsi al punto tale che ieri il governo ha dovuto sconvocare le riunioni della commissione industria sia al pomeriggio sia alla sera. Se ne parla oggi dopo pranzo e vedremo se il governo riuscirà a evitare che annunci tanto enfatici finiscano poi con effetti molto diversi da quelli che i sostenitori a oltranza enfatici del governo dicono. Conclusione: bisogna confermare il sostegno a questo governo? Assolutamente sì, però bisogna mantenere la testa fredda ed essere capaci di distinguere l'enfasi dai risultati concreti. L'enfasi fa sempre male, per così dire, i risultati concreti bisogna saperli valutare freddamente. Allora cominciamo nell'analisi con Enrico Zanetti che abbiamo più volte presentato ai nostri ascoltatori, e io raccomando a voi tutti di guardare online il sito di eutecne.info che ogni giorno con la cooperazione dei dottori commercialisti analizza novità fiscali e del nostro ordinamento. naturalmente non vorrei che i colleghi in ascolto del sole pensassero stai facendo con pubblicità alla concorrenza, oltre a tutto quello che offre il sole, norme, tributi, approfondimenti sul portale eccetera, però io guardo anche altrove e mi sembra giusto doverlo segnalare. Allora Enrico Zanetti, buongiorno e grazie innanzitutto a lei. Buongiorno e grazie a lei direi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo con noi anche Enzo Mezzi, direttore generale di Bravo Solution, che vi presenterò tra poco, perché con lui approfondiamo un secondo i temi della spending review. Allora Zanetti, da quello che abbiamo capito dalle anticipazioni della misura che vanno oggi in Consiglio dei Ministri, che cosa in realtà bisogna attendersi? Sono davvero più semplificazioni, più agevolazioni, più alleggerimenti o nelle pieghe c'è una botta di nuovi gravami sulla linea del stato assetato, mi prendo quello che posso e ne prendo sempre di più con ogni provvedimento? Ma diciamo che le misure di semplificazione che sono state anticipate presentano innanzitutto un carattere un po' asistematico, quindi sono degli interventi un po' di manutenzione qui e lì che non hanno un quadro complessivo di riforma proprio o di semplificazione del sistema. Diciamo che si cerca di sistemare alcune storture eccessivamente gravose per i contribuenti. Nel farlo, tra l'altro, in alcuni casi, giustamente lei prima lo ricordava, di fatto si vanno a reintrodurre adempimenti che prima non c'erano, il caso degli elenchi clienti e fornitori. Perché? Perché sostanzialmente ci si è resi conto che lo spesometro con il limite dei 3.600 euro, nell'istante in cui è stato interpretato dall'amministrazione finanziaria come un limite che doveva comunque tenere conto di eventuali operazioni sotto quella soglia, ma tra loro collegate, tali da dover essere a quel punto comunque comunicate, ci si è resi conto che a quel punto paradossalmente diventava più semplice eliminare la soglia minima di 3.600 che creava mille dubbi in ordine appunto alla comprensione di quando le operazioni sono tra loro collegate e dire comunicami tutto. E quindi di fatto è paradossale, ma siamo ormai a un punto tale che la reintroduzione di un obbligo come l'elenco clienti e fornitori, che era sempre stato considerato una delle massime complicazioni, oggi deve paradossalmente essere accolta quasi come se fosse anch'essa una semplificazione. Allora, su questo naturalmente mi faccia solo interruzione, perché io nei giorni scorsi ho scritto molto scandalizzato per questa misura. Naturalmente ai contribuenti che sono solo soggetti a sostituto d'imposta dici ma cos'è questo elenco cliente fornitori, perché tanto protestate? Allora, è la quarta volta in 20 anni che nel nostro ordinamento entra ed esce questo elenco clienti fornitori. Che cos'è in parole concrete? In parole concrete la politica e chi è a capo dell'ordinamento tributario, insomma dell'amministrazione tributaria italiana, ha aperto e chiuso innumerevoli volte questo capitolo dicendo per aiutare lo Stato ad avere una piena contezza di tutte le operazioni sulle quali innanzitutto combattere l'elusione e l'evasione dell'IVA, tanto per cominciare, ma poi anche le fonti di creazione del reddito per gli altri contribuenti, mi fate la cortesia, signore persone giuridiche, partite IVA, aziende, eccetera, eccetera, di darmi l'indicazione di tutte le vostre operazioni con i vostri clienti e fornitori. Tutte significa anche con le caratteristiche specifiche di ciascuna di queste operazioni. Questo cosa è entrato e uscito dal nostro ordinamento 4 volte in 20 anni, 4 volte. Fino a 2 settimane fa doveva entrare in vigore un criterio per il quale moltissimi di noi hanno speso centinaia di euro, talvolta migliaia di euro per nuovi software, perché invece a fini anti-elusivi ed anti-evasivi dell'IVA lo Stato aveva allegato al criterio dello spesometro persone fisiche 3.600 euro una soglia di 3.000 euro per le comunicazioni delle parti correlate, per così dire, a fini IVA. E si erano elaborate quindi fattispecie complicate per via del fatto che mettere insieme più operazioni incappavi esattamente in questo problema. Adesso si spaccia per semplificazione il fatto che invece si torna esattamente a quello da cui si era usciti anni fa, con nuove spese naturalmente per la produzione di software, per la loro acquisizione e così via. Questo andamento a me lo Stato non può spacciarlo per semplificazione, perché il fatto che naturalmente io mi debba sostituire alle sue operazioni di controllo su chi mi vende qualche cosa, perché di questo si tratta, è a spese mie, e farlo a spese due volte in un'unità di tempo così ristretta, perché lo Stato cambia idea, e che tutto questo venga spacciato oltretutto come assecondare le proteste dal basso, mi sembra veramente troppo. Questa è la mia opinione, Zanetti, non so la sua. Lei è tenuta a essere più diplomatico, io un po' meno, per così dire. Però oltre a questa misura, a cosa stiamo andando incontro oggi? Ah no, adesso mi spero che mi possano essere riconosciute varie qualità. La diplomazia probabilmente non è in cima a queste, quindi non ho alcun problema anch'io a pronunciarmi in modo critico quando la cosa lo merita. Nello specifico, e qui lo dico proprio anche da dottore commercialista, quindi da operatore, per come era stato costruito il sistema previgente, con una norma che prevedeva una soglia sotto la quale non serviva comunicare, ma poi dei chiarimenti ufficiali di prassi dell'amministrazione finanziaria che imponevano comunque di ricostruire quelle operazioni che, ancorché sotto soglia, messe tutte insieme, finivano sopra soglia e dovevano quindi essere comunicate. Ecco, nell'istante in cui era stato costruito un meccanismo così bestiale, questo non è certo un termine diplomatico, ma è un termine adeguatamente descrittivo di ciò che era, paradossalmente, ripeto, dire comunicate tutto diventa, ecco, forse una semplificazione, effettivamente una parola sbagliata, ma diventa quasi una razionalizzazione, diventa una scelta di campo, quantomeno, diciamo, si getta la maschera, comunicate tutto. Getta la maschera, lo Stato dice, se volete comunicarmi di meno, rispetto non a voi stessi, qui stiamo parlando degli altri con i quali noi mettiamo in piedi affari, vi complico così la vita che preferirete dirmi esattamente quello che avete respinto prima, cioè ditemi tutto, per così dire, diventate polizia fiscale, esattamente così. Esatto, devo dire che da operatore, piuttosto che prima, meglio questo. Dopodiché potremmo discutere, appunto, in termini molto concreti di quello che lei diceva prima, cioè in ordine al fatto che si ha un monte di comunicazioni oggi talmente rilevante da mettere in seria difficoltà gli operatori, creare molti oneri, e anche gli studi professionali, che sono sempre più dei trasmettitori di dati per conto dello Stato, tra l'altro un'attività che lo Stato da questo punto di vista non riconosce ad alcun titolo agli intermediari fiscali. Ora, poi invece liti con il fisco, ci sono proroghe, si può rateare di più. Lei che cosa ha capito da questo punto di vista? Cioè, in realtà di sgravi veri da queste semplificazioni, almeno dalle anticipazioni che sono uscite dal provvedimento, c'è qualche cosa di solido e significativo oppure no? Allora, qualche provvedimento sul fronte delle rateizzazioni degli importi da pagare in presenza di contestazioni, cartelle erariali, ci sono. In particolare è importante un provvedimento con il quale si andrebbe finalmente a chiarire che se un soggetto rateizza il proprio debito col fisco è comunque adempiente rispetto all'obbligazione che ha nei suoi confronti, e quindi poi non si trova attratto in tutte quelle drammatiche problematiche connesse al fatto che se non sei adempiente col fisco le pubbliche amministrazioni non ti pagano, creando un loop per il quale chi è in difficoltà va ancora più in difficoltà. Devo dire che per il resto un aspetto sul quale c'è molta attesa, perché parrebbe che dovrebbe essere affrontato già nel corso di questo decreto, è quello legato anche alla disciplina dell'abuso del diritto, cioè una regolamentazione finalmente più chiara di quel problema che si è generato in modo molto significativo negli ultimi 3 anni a seguito di una certa deriva giurisprudenziale che, se vogliamo, ha messo il sistema tributario in difficoltà allo stesso modo in cui la deriva giurisprudenziale sul diritto del lavoro rende necessario ragionare sull'articolo 18. Ecco, forse è un parallelismo un po' ardito, ma direi che possiamo proprio metterlo in campo. Quindi una norma con la quale andare meglio a definire cosa si intende per abuso del diritto, quando soprattutto non si è in presenza di abuso, pur di fronte a situazioni di legittima pianificazione fiscale che determinano la riduzione del carico. Perché oggi purtroppo stiamo arrivando all'assurdo per il quale la semplice scelta tra due strade alternative per arrivare a una medesima sistemazione di interessi economici, la medesima scelta di quella che è fiscalmente meno onerosa, diventa quasi di default considerata come scelta elusiva, mentre chiaramente non è così. Se io pongo in essere delle operazioni che non hanno in concreto alcun scopo tranne quello di ottenere un risparmio fiscale, perché per il resto io non vado a fare delle vere e proprie trasferimenti di ricchezza tra parti terze, faccio solo delle operazioni, dei giri un po' complicati che hanno come scopo finale semplicemente quello poi di lucrare un risparmio fiscale giocando tra le pieghe delle norme, lì non ci piove, siamo di fronte a pratiche elusive. Ma quando io, per vendere, poniamo un'azienda, scelgo magari, anziché di cedere direttamente i beni, il complesso aziendale, scelgo di cedere la partecipazione nella società che li possiede, perché tra l'altro chi la compra è interessato a sua volta a esercitare quell'azienda attraverso un veicolo societario dedicato, cosa del tutto normale, beh, ecco, mettersi a ragionare di illusioni in questo contesto diventa un gioco al massacro. È chiaro che magari vendere l'azienda direttamente piuttosto che vendere la società presenta regimi fiscali differenti, perché il nostro sistema prevede trattamenti diversi, ma non è questa l'illusione. L'illusione è la ricerca di un risparmio fiscale in debito, non la ricerca di un risparmio fiscale tra diverse soluzioni assolutamente legittime per sistemare i propri interessi economici. Ma noi abbiamo, io ricordo incessantemente sentenze, ce n'è stata quella recente sul regime della deducibilità fiscale di consoci di cui alcuni residenti con le attività incardinate all'estero, che si sono trovati con la Suprema Corte che ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate, che al subentrare anni dopo rispetto al loro accertamento, rispetto al loro pagamento di imponibile e imposta, al calcolo dell'imponibile e poi al pagamento dell'imposta, anni dopo entra una nuova norma diversa su come si calcolano le basi imponibili tra consoci quando uno di loro è all'estero, e malgrado sia a 5 anni di distanza e l'Agenzia delle Entrate chieda quindi una reinterpretazione in base alla quale i consoci dovevano pagare di più, anche se, ripeto, la norma arrivava 5 anni dopo rispetto all'anno fiscale su cui calcolare l'imposta, la Suprema Corte ha dato ragione all'Agenzia delle Entrate dicendo che altrimenti è abuso di diritto da parte del contribuente. Questa che è una delle tante sentenze accumulate, la prova della barbarie dello Stato ladro, perché di questo si tratta. E mi dispiace il fatto che siano giudici della Corte di Cassazione, comprovati anche dalle sentenze della Corte Costituzionale, alle mie orecchie, ai miei occhi, in quanto difensore dello Stato di diritto, non mi fa arretrare. Non è vero che il giudice ha sempre ragione, bisogna rispettare le sentenze, sì, ma quelle barbare, ispirate al principio che lo Stato ha sempre ragione in maniera fiscale, bisogna combatterle a viso aperto, come facciamo di qua, con un tono un po' diverso da quello che usa, diciamo così, Confindustria. Distingo le mie responsabilità da quelle dell'editore. Vediamo se questa interpretazione dell'abuso di diritto promessa nel provvedimento di oggi è davvero tale da consentirci di porci finalmente al riparo, una vera svolta dopo decenni di barbarie e latrocinio, con la piena cooperazione dei signori giudici. Altrimenti, siccome non ci credo, perché lo Stato è così assetato da continuare semplicemente a prendere per sé, continueremo da questi microfoni a dire che lo Stato è un ladro, ed è un ladro anche se la Corte di Cassazione e la Corte Costituzionale gli dà ragione, anzi è un ladro più temibile ancora, perché fa della simmetria del diritto, dello scudo e della forza della sua decisione di poter instaurare lo stato di eccezione nei confronti di me contribuente il presupposto per farmi sentire eticamente fuori posto. Ma eticamente fuori posto c'è solo lui nel rapporto improprio, per cui non ho gli stessi diritti né nel contenzioso, devo pagare un terzo di quello che mi chiede per andare di fronte a un giudice che non è terzo, come non è terzo il giudice fiscale. Ladro, ladro, ladro. Eccoci tornati in studio. Mi rendo conto che nell'utilizzare parole e toni duri come quelli che utilizzo su questi temi c'è un equivoco che si può creare ogni volta, e per questo io ci tengo a separare le mie responsabilità. Io porto individualmente la responsabilità di questi miei toni, di questi giudizi molto taglienti, sia a questa, voglio separare la mia responsabilità rispetto a questa radio, rispetto al suo direttore Fabio Tamburini, rispetto all'intero gruppo editoriale. Tutti loro hanno un tono molto diverso dal mio, sono molto più equilibrati. Ieri Il Sole ha presentato il decreto in arrivo oggi come un decreto di grande agevolazione per il contribuente. Io la penso in maniera diversa, sono minoritario, probabilmente mi manca un venerdì. Io ritengo che nella materia fiscale la giusta lotta all'evasione fiscale, che è diventata l'unico criterio in base al quale si impronta il nostro ordinamento e si susseguono i provvedimenti, sia uno schermo di virtù. È giusto perseguirla, la lotta all'evasione fiscale. Siamo un paese con molto nero, non è affatto vero che siamo l'unico paese al mondo con il nero, non è affatto vero che siamo l'unico paese al mondo con doppie cifre di nero, perché non è vero neanche quello. Questo fa parte di un'autopropaganda convinta di additare negli italiani i responsabili di quello che non funziona nella nostra macchina di finanza pubblica. Io sono contrario a quest'ultima parte, contrario quindi alle esagerazioni, contrario all'assenza di alternative a una linea di politica economica che fa solo dell'aggravio della pressione fiscale fiscale, anche attraverso la lotta all'evasione fiscale, l'unica linea di continuità delle misure di politica economica che si susseguono da 20 anni a questa parte, dai tempi delle manovre Amato, ai tempi dell'ingresso nell'euro con Prodi, poi quando abbiamo iniziato a essere sospettati nell'area euro, sia quando al governo c'erano i centrosinistra, con le manovre o di Vincenzo Visco o di Tommaso Padoa-Schioppa, poi con il centrodestra, uguale, con le stesse tipi di manovre, aggravio di pressione fiscale, avanzi primari fatti per via fiscale, senza mai diminuire la spesa corrente, ma alzandola e alzando le tasse, dicendo che questa era la via della virtù. Anche Tremonti ha fatto la stessa cosa, anzi l'ha molto aggravata, e anche le misure del governo attuale sono in totale linea di continuità rispetto a questo. Dice, ma si fa in fretta a criticare quando c'è l'Europa che incalza. Verissimo, ma un'alternativa come si fa? L'alternativa è fatta, l'ho detto mille volte, debito pubblico, che è uno stock, si aggredisce con gli stock, cioè con gli attivi pubblici, e ci cedono attivi pubblici per molti punti di PIL. Questo governo lo sta facendo? Non lo sta facendo neanche lui, come neanche gli altri. E il problema del controllo dei flussi, cioè dell'eccesso di spesa, non si risolve per via fiscale, ma si risolve facendo come altri paesi hanno fatto, paesi welfaristi, paesi avanzati, paesi di alti diritti, paesi di alti costi come noi, diminuendo di 5, 6, 7 punti di PIL in 4 o 5 anni al massimo la spesa pubblica e insieme alla pressione fiscale. Dire che la pressione fiscale può scendere solo con i proventi della lotta all'evasione è la maniera con cui lo Stato continua a prendersi di più, perché di mettere mano a un eccesso di spesa burocratica, inefficiente e pachidermica non ci pensa proprio, e non ci ha pensato né con i tecnici, né col centrodestra, né col centrosinistra. Credo perché i tecnici pubblici al comando di ragioneria sono sempre gli stessi da 20 anni a questa parte, ma non è vero che non c'è un'alternativa. Allora, per capire come l'alternativa si potrebbe meglio disegnare, e io direi la spending review di cui mi aspetto, vorrei che fosse 5-6 punti di PIL di spesa pubblica in meno in 5 anni, e si può fare perché è esattamente quello che ha fatto la Germania negli anni del pre-crisi. Abbiamo con noi Ezio Mezzi, che vi ho presentato all'inizio, che è direttore generale di Bravo Solution. Perché Bravo Solution e cosa c'entra con la spending review? Perché proprio Bravo Solution ha vinto una gara internazionale per il progetto di spend analysis per la pubblica amministrazione inglese, e per essere chiari si tratta di riordinare in quel caso ben 47 miliardi di sterline. Allora Mezzi, in questo caso voi cosa siete chiamati a fare e che tipo di riduzioni siete incaricati tecnicamente di provvedere direttive a, perché poi il politico britannico le assuma e le traduca in concreto? In quanta spesa pubblica in meno facendo efficienza nei comparti della pubblica amministrazione britannica? Pronto? Buongiorno a lei e buongiorno agli ascoltatori. Beh, dunque, intanto, se mi consente, volevo fare prima spendere prima due parole molto velocemente sul concetto un po' di spending review, utilizzando il più possibile una terminologia semplice e comprensibile anche per i non addetti ai lavori. Spending review vuol dire chiedersi e porsi alcune domande sulla spesa, per esempio, porsi domande sull'utilità della spesa, porsi domande su come la spesa può essere ridotta in termini per esempio di volumi e di consumi, porsi la domanda del benchmark della spesa, cioè il confronto della spesa stessa con altri enti compratori, e addirittura arrivare alla decisione finale di annullare proprio e di azzerare proprio la spesa. Ci sono diciamo due livelli importanti di approccio allo spending review. C'è un approccio, direi, dettato dall'urgenza, che si ferma ad un alto livello di analisi della spesa, che mi sembra di intuire sia l'approccio che sta utilizzando oggi il governo italiano, cioè partire dall'analisi della validità, dell'importanza e della necessità addirittura di alcuni enti, per poi arrivare invece nel momento in cui questo progetto diciamo più alto di razionalizzazione è stato compiuto, arrivare proprio ad analizzare la spesa vera di funzionamento. Sì, detto questo, perdoni, io sono un po' più brutale, siamo meno diplomatici. È da anni che viene promessa una spending review, da anni, e già da due leggi di stabilità, le ex leggi finanziarie a questa parte, che vengono votati documenti in Parlamento che avrebbero dovuto produrre queste spending review. La parte tecnica, quella che governa nell'opacità, cioè la ragioneria generale dello Stato, i flussi di spesa pubblica, Repubblica, in realtà ha fatto in modo che nel governo precedente, né questo per il momento ottemperasse, perché ci si dice che il processo è molto lungo, tutto in Italia è molto lungo, solo la vita è breve e le tasse sono immediate. Allora, il problema è che altri paesi, come nel caso della Gran Bretagna, io leggo qua dalla cosa che ho di Bravo Solution, si propongono riduzione di spesa fino al 25%, fino al 25%, qua di riduzioni quantitative annunciate non ce n'è mai, perché tanto quando si entra una spending review, abbiamo letto che le anticipazioni di quella affidata a Giada Cirivi, ieri siriani parlavano di 5-10 miliardi di euro in tutto, ma stiamo scherzando, 1,03-0,4-0,5 punti di PIL, tutto lì quello che si può tirare fuori dal 52% di spesa pubblica interminata dallo Stato in Italia, non fateci ridere, perché sennò vuol dire che è una presa per i fondelli. Nel caso britannico invece come siamo messi? Guardi, nel caso britannico il progetto di spending review si inserisce in un progetto più ampio di razionalizzazione della spesa e di riduzione dei costi, che vale fino a 80 miliardi di sterline in 4 anni. Quindi il progetto di spending review è, diciamo, all'interno di un obiettivo più grande di risparmi, che sono 80 miliardi di sterline. Che cosa vuol dire però fare l'analisi della spesa? Perché questo direi è il concetto importante. Cioè, lei giustamente ha detto sono progetti che richiedono un po' di tempo. Certamente richiedono un po' di tempo, ma se mai si comincia, mai si arriva. E poi nel tempo lungo necessario per sviluppare questi progetti si può avere anche un approccio tattico strategico, come ha avuto la pubblica amministrazione inglese, di cominciare ad anticipare il conseguimento dei risparmi. E quindi, anziché partire con l'ambizione di analizzare il 100% della spesa fino all'ultimo dettaglio, cominciare da alcune voci di spesa, e nello specifico noi abbiamo avuto un mandato dal governo inglese per analizzare 20 voci di spesa importanti della pubblica amministrazione, e su queste 20 voci di spesa identificare quelle opportunità e quelle azioni che portano al conseguimento, alla realizzazione e al conseguimento dei risparmi. Il nostro compito nello specifico per quanto riguarda questo argomento è di fornire le tecnologie e il metodo necessario per analizzare la spesa, ma soprattutto per consentire che questo processo di analisi e di controllo della spesa possa essere reiterato periodicamente. Cioè non è un intervento di emergenza, non è una scelta ispirata solo dall'emergenza, quella del governo inglese, ma è una scelta strutturale di dotarsi di strumenti e di tecnologie che consentiranno nel tempo di reiterare questo processo e quindi di controllare periodicamente l'ammontare e le modalità della spesa. Allora, il problema è che io diffido di procedure di spending review che vengano assunte, come capita in Italia, senza dichiarare in ex ante qual è l'obiettivo quantitativo a cui mirano, e per quantitativo significa il complesso del totale di spesa corrente esaminata per comparto e l'obiettivo di rientro, cioè di ridiminuzione in termini di spesa reale, non di diminuzione sui flussi aggiuntivi previsti a legislazione vigente, che è la classica tecnica rapinatrice usata dalla Ragioneria Generale dello Stato. In Italia si spaccia alla gente che noi tagliamo spesa pubblica, quando invece non abbiamo mai tagliato niente, la spesa è sempre cresciuta, eppure siamo tutti convinti, e compresi i miei colleghi giornalisti, scrivono i giornali dicendo basta coi tagli. Di tagli non ce n'è mai stato, perché abbiamo una tecnica di formazione e di vigilanza della spesa pubblica che apposta è stata impostata sui flussi aggiuntivi inerziali di spesa rispetto agli stock realizzati l'anno precedente. I tagli si fanno sempre rispetto a come crescerebbe nell'anno in corso il totale della spesa corrente a legislazione vigente, non su quanto si è speso l'anno precedente, e i tagli di cui la politica si riempie la bocca sono nel differenziale aggiuntivo rispetto a quello che si è speso l'anno precedente, e sono sempre meno di quel differenziale aggiuntivo. Ecco perché nel totale del dopoguerra italiano solo il numero anni 2, ripeto, 2 dal secondo dopoguerra, in termini reali la spesa pubblica è diminuita rispetto ai precedenti, una volta sotto Ciampi e poi è puntualmente riavvenuto in questi ultimi nel 2011-2010, quindi sono 3 anni, altrimenti è sempre cresciuta grazie a questo. Noi anche con la spending review che stiamo aspettando non sappiamo di quanti punti di PIL deve mirare alla riduzione, fino a che non sarà così, la mia opinione brutale è che ci stanno prendendo in giro. da questo punto di vista, ieri il mio amico ex dirigente Fiat Monferino, chiamato nella regione Piemonte a fare l'assessore alla sanità perché si trattava di semplificare e diminuire di molte unità il numero di aziende ospedaliere e aziende sanitarie, ed è questo a cui l'hanno chiamato tecnici, perché altrimenti i partiti della maggioranza litigavano tra loro, visto che siamo pieni di politica nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere. Ieri in un'intervista alla Stampa, che a Torino abbiamo tutti letto, ma non so quanti altri di voi l'abbiano letto perché è nelle pagine di Cronaca Cittadina, di fronte al fatto che nella riduzione per diminuire i costi e aumentare l'efficienza e la qualità del servizio, le obiezioni a cui va incontro la sua opera di razionalizzazione sono sempre improntate al fatto: questo non si può toccare, questo non si può toccare, non si possono accorpare servizi ospedalieri del tutto analoghi concentrandoli in questo o in quel polo invece che continuare a moltiplicare sul territorio. A un certo punto è sbottato l'assessore Monferino, forte della sua esperienza manageriale privata, e ha detto: sapete qual è la verità? La verità è che nel privato ci sono scelte di fronte alle necessità di rientrare che si assumono quando sono ispirate al buon senso, sono sue le testuali parole, si assumono in 5 minuti. Nel settore pubblico la mia esperienza dice che è sempre impossibile, perché non si guarda al bene pubblico ma agli interessi di chi rappresenta gli interessi di pezzi di spesa pubblica, che sono cosa ben diversa dall'interesse generale. Questa amara realtà che un manager privato, in base alla sua esperienza comparata, può testimoniare, è l'amara verità che purtroppo si cela sempre dietro all'aumento della spesa del nostro paese. Tutti coloro che dicono che è intoccabile perché afferisce a diritti fondamentali e a servizi, mente, perché sul totale dei 52 punti di PIL intermediati dalla spesa pubblica il totale della spesa sociale è il 22%. Quegli altri 30 punti sono non solo la casta, come si suol dire e si esagera, sono gli interessi di pezzi del mercato di imprese italiane che lavorano per il mercato domestico al riparo di prezzi, tariffe amministrate, finte gare, eccetera eccetera. Ci sono milioni di italiani che affondano le mani in quei 30 punti di spesa pubblica. E allora prendiamo esempio dalle spending review fatte dagli altri, dichiarando obiettivi fino a 80 miliardi di sterlini di spesa in meno. Quando in Italia ci sarà qualcosa di simile, mi scappellerò di fronte al governo dei tecnici, altrimenti è uguale a tutti gli altri. E torniamo con i Doors in chiusura anche oggi. Sì, non è stata una puntata molto ottimistica, però perdonatemi, io su questi temi un po' mi scaldo. E una testimonianza per chiudere, visto che c'è un altro tavolo aperto, quello della riforma del lavoro, anche lì non ho ancora capito, a distanza di settimane, davvero che cosa possiamo aspettarci tra nuovi strumenti, io spero, di sostegno al reddito di chi perde il lavoro, distinti dai tempi di razionalizzazione delle imprese, che devono abbreviarsi e non continuare a essere confusi con gli anni della cassa straordinaria. In deroga, io mi auguro che si esca dal conservatorismo di tenere invece la cassa in deroga così come è. So che su questo Confindustria la pensa diversamente e che pensa che oggi non bisogna cambiare le cose. Io penso che nelle crisi bisogna cambiare le cose, e mi auguro su questo oltretutto che si esca dalla facile demagogia di dire che diamo a tutti il contratto a tempo indeterminato uguale a tutti, non toccando anche la flessibilità in uscita. Da questo punto di vista abbiamo letto sul Mattino 2 giorni fa la testimonianza di un giovane imprenditore, Angelo Bruscino, che è presidente dei giovani Confap in Campania, ha un'azienda di 150 dipendenti e ha detto la seguente cosa. Infatti lo abbiamo chiamato qua e è qui con noi da un 20 minuti, purtroppo ha solo ascoltato. Angelo Bruscino, qual è la sua proposta sulla flessibilità a questo tavolo? Che cosa è disposto a fare con la sua impresa? Buongiorno dottore. Dottore, spiego brevemente la mia proposta. Io propongo di abolire l'articolo 18 e dare alle imprese la libertà di agire sempre per il merito all'interno della propria impresa e far pagare alle imprese lo scotto dell'abolizione dell'articolo 18, applicando l'onere e il dovere all'impresa che procede al licenziamento del mantenimento per un periodo di tempo che va da 6 mesi a 1 anno in base alle dimensioni dell'impresa con il pagamento del salario anticipato al lavoratore licenziato, in maniera tale da garantire il lavoratore per un arco di tempo congruo a trovare un nuovo lavoro e dare la libertà alle imprese di scegliere sempre al loro interno chi tra virgolette vale, lavora, si impegna, scommette sull'azienda insieme a tutti gli altri lavoratori e che invece preferisce stare con le mani nelle mani. Mi pare una proposta semplice, comprensibile. Non le mani libere all'impresa in cambio del no alla corresponsabilizzazione su maggiori oneri a carico dell'impresa per il sostegno al reddito di chi perde lavoro. Buscino comprenderebbe anche i licenziamenti, non solo quelli economici, è chiarissima la sua proposta, ma anche quelli disciplinari. Questa maggiore facoltà, sa che su questi c'è un confronto aperto. Quelli discriminatori ovviamente resta il filtro giudiziale, nessuno pensa a liberalizzare i licenziamenti discriminatori, ma anche su quelli disciplinari lei vorrebbe questa facoltà? No, dottore, io in realtà io la penso in questa maniera. Io sono un giovane, ho 31 anni, sono un giovane italiano prima di tutto e sono anche un imprenditore del Sud Italia. Io credo fortemente che l'articolo 18 sia nato in un contesto sociale, in una stagione dell'Italia completamente diversa da quella attuale. Oggi l'evoluzione anche sociale, morale, nel rapporto tra imprese e lavoratori è andata molto più avanti. L'articolo 18 ormai è una rendita di posizione per le vecchie generazioni di lavoratori e non tutela assolutamente le nuove generazioni. E su questo io sono totalmente d'accordo con lei e la ringrazio. Per noi tutti, appuntamento a lunedì.